è che ai precari in attesa di promozione si chiederà solo ed esclusivamente di fare un fax. Uno, e uno soltanto. Non due, tre o magari 50, come può capitare di fare in un giorno in un qualsiasi ufficio pubblico a qualsiasi latitudine del globo terrestre. Un fax, e uno soltanto, basterà, finalmente, a spalancare le porte per l'ingresso nella categoria A. Perché, infatti, se si vuole o si è in grado di strafare facendo più di un fax, allora si può anche tentare la strada per venire assunti in categoria B. Tornando invece alla categoria A, l'ultima determinante prova è la cosiddetta movimentazione documenti. Così come definita non sembrava troppo chiara e di conseguenza l'amministrazione ha spiegato, per iscritto, ai preoccupatissimi rappresentanti sindacali, che si tratterà di aprire un faldone, estrarre un singolo fascicolo, richiudere il faldone mediante appositi nastri. Oppure aprire il faldone e sistemare i fascicoli in ordine alfabetico. Dopodiché, come se tutte le prove precedenti fossero state un gioco da lattanti, si dovrà simulare la consegna manuale di un documento con apposito libro di raccomandata a libretto. Ma un minimo di pietà, signori esaminatori. Su via! Con che coraggio si complica l'esistenza così alla gente? Posso ben comprendere che queste prove suscitino sorpresa e ironia, obietta garbatamente il dottor Giuseppe Amato, dirigente dell'assessorato regionale alla funzione pubblica. Ma questo è esattamente ciò che si chiede e si può contrattualmente richiedere, secondo il mansionario, ai lavoratori di categoria A e di categoria B. E contrattualmente la regione siciliana si comporta esattamente come le altre regioni a statuto autonomo. Per intenderci, non è che ci siamo inventati noi queste prove. Inoltre, questo va precisato, nel nostro caso si tratta solo di sanare, finalmente, una posizione di precarietà che per molti dei nostri dipendenti risale addirittura a 15-20 anni fa. Quindi gran parte di queste persone questi compiti li sta già svolgendo da anni. Per questo non si tratta di un bando di concorso né di test attitudinali, ma solo di verifiche delle loro capacità. Puntuali e utili precisazioni, non v'è dubbio, ma l'ironia o la sorpresa resta lecita se si va a spulciare tra le verifiche di idoneità che la regione siciliana chiederà ai precari che aspirano alla categoria B. Dovranno saper fare fax anche a più pagine e a numeri internazionali. Dimostrare di saper protocollare mediante protocollo cartaceo o informatico lettere in entrata e in uscita, nonché di essere capaci di archiviare documenti mediante l'uso di strumenti informatici o mediante compilazione di schedario. Per concludere con un esame di videoscrittura o di uso del foglio elettronico e con la predisposizione di un modulo per raccomandata. Le verifiche attitudinali potranno tenersi fra il 4 ottobre e il 5 novembre. Sarà l'assessore Chinnici a decidere quando, ma visto che già 4.722 sui 4.912 potenziali candidati hanno presentato domanda, le prove potrebbero venire anticipate a fine settembre. E meno male, altrimenti sai che spreco di carta a furia di allenarsi a fare fotocopie. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gabriele Villa, La Sicilia assume, basta saper spostare un foglio, dal Giornale del 16 settembre. La CNN perde il primato negli ascolti, mentre salgono le TV schierate politicamente. Questa volta la notizia non è fornita dalla CNN, ma riguarda la CNN. L'emittente simbolo dell'informazione americana ha perso il primato negli ascolti, sorpassata da Fox News di Rupert Murdoch e da MSNBC. Così il direttore Jonathan Klein, chiamato per ridare smalto all'emittente, è stato licenziato. Le difficoltà della All News più famosa del mondo, il cui modello di giornalismo, presenza continuata 24 ore su 24 e imparzialità quasi istituzionale, avrebbe dovuto fare scuola in tutto il mondo, ci aiutano però a capire meglio la crisi che l'informazione sta attraversando. Il motivo principale è che sia Fox che MSNBC hanno costruito il loro successo su una squadra di commentatori ultra politicizzati, da Glenn Beck a Keith Olbermann a Chris Matthews, finendo per diventare rispettivamente la rete della destra e della sinistra. In un momento in cui prevalgono la TV schierata, il giornale partito e con esso un giornalismo che chiede il sangue dell'avversario, spesso con processi sommari e lapidazioni mediatiche, chi conserva la vecchia idea liberal dell'informazione super partes fa la figura di non avere opinioni politiche. Vaso di coccio tra vasi di ferro. l'informazione oscilla sempre più fra l'appartenenza a un clan e la pura emozionalità. Quando si invoca un'informazione più coinvolgente, che faccia ascolto, significa che il senso di responsabilità e lo scrupolo vengono messi in disparte a favore sia di partigianerie molto nette che di impressioni. Buona parte della politica e dei media, compresi i nuovi social network, si basa più sulle emozioni che sulle idee, molto sulla paura. La suggestione ha preso il posto del ragionamento. Ogni opinionista aspira a diventare un leader o un guru. Non è un caso, allora, se in America il pubblico più avvertito ha bisogno di ironia, di integrare le news con gli interventi di comici intellettuali come Jon Stewart e Stephen Colbert, capaci di mettere a nudo le nuove derive della comunicazione. I due, assieme ad altri, hanno organizzato per il 30 ottobre a Washington il Rally to Restore Sanity, una giornata per il ripristino della ragionevolezza. Noi ci dobbiamo accontentare dei vaffa di Beppe Grillo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Aldo Grasso, vince l'informazione partigiana e la CNN diventa il vaso di Coccio, dal Corriere della Sera del 27 settembre.